Perdente, tra una donna distratta e una stella cadente, i suoi sensi di colpa le stavano appresso, come un vecchio vestito che ti cade addosso. Era bella sul serio, col viso truccato, fiore di carta, incerto e sbiadito. La sua vita la vide passare di corsa, gliela vissero gli altri, lì fu una comparsa. Lei non sapeva parlare. Per soldi ed un po' per paura, lei decise di usare quell'altra natura. Mise in vendita un viso da bimba perversa e si prese il suo marchio di donna diversa.